Bravissimamente io dicendo che siccome amo leggere, amo la lettura, amo i libri eccetera e mi incontro spesso con loro, ho la malaurata idea di dire ah questo che bello che bello e loro hanno, mi prendono subito così, dico bene bene, noi lo facciamo, lo presenti tu, questa è la storia, non è che insomma è un po' più o meno così. Comunque non importa, sono felice di essere qui. Questa sera presento un'amica carissima, Federica Mormando, che è un mucchio di cose. È psichiatra, psicoterapeuta, giornalista, presidente di Eurotalent Italia, che è un'associazione interessantissima, della quale potremmo casomai parlare, ma non so se è il caso. Ha vinto 2 volte il premio di poesia per medici scrittori, lo leggo di qui, e lo sapevo però, e anche il premio finalmente a poesia, ha scritto Vai qui, io sempre, che ho sempre letto, via, io ho sempre letto Via da qui, giuro, l'ho letto il libro, io ho letto il titolo Via da qui, giuro, adesso leggo che si chiama Vai qui, vabbè, scusatemi, che è un libro vincitore del premio Carpena Oak da prima e del CIPEA, autrice di bambini ad altissimo potenziale intellettivo, e questo si riferisce al suo discorso di Eurotalent naturalmente, e ha avuto la direzione artistica di spettacoli, lo leggo sempre, L'andar dei popoli e Note di gioia, di cui ha partecipato anche come compositrice. La cosa più bella, più grande di questa mia carissima amica, che dopo vi dirò brevemente, visto che ha raccontato come vi siete conosciute voi, vi racconto come l'ho conosciuta io, che è anche la sua parte di empatia, va bene? Come dice lei, facendola grande, ecco, e è una bravissima, naturalmente scienziata, è un medico e fa il suo lavoro di aiuto con le parole, la comunicazione, cerca di aiutare nel vero senso della parola, parola con le parole, e poi soprattutto della parola usa in questo senso anche nel suo estremo distillato che è la poesia. Ma non solo, della parola, e questa volevo che questa sera ci fosse una sorpresa, speravo per di più, una sorpresa che non riguarda, che non fa parte di questo libro, ma è una sorpresa veramente eccezionale. La nostra Federica ha cominciato a pensare che oltre al suono, cioè alla parola come suono, come dicevo, in lettere, c'è anche il suono musicale. Lei ha cominciato a studiare molti anni fa, me lo ricordo, la cetra, prima di tutto, e poi dopo altri strumenti, ed è una compositrice di buon valore, e oggi vi dedica, ci dedica, con questo cominciamo e poi andiamo avanti con le poesie, un pezzo molto interessante da lei scritto come poesia, cioè ha scritto sia la poesia che la composizione musicale in ricordo del 24 del mese di aprile 1915. 15? Oh, ma anche questo sbaglio. Comunque 15, vabbè, scusatemi, 15, che è l'eccidio degli armeni. E lei ha fatto tutto questo pezzo meraviglioso, pezzo musicale che adesso sentiamo, dopo lei aver scritto la poesia poi partiamo con la storia di questo libro. E vi racconto dopo la storia del nostro incontro. Prima la musica? Prima la musica. Penso di sì, no? Sì. Commentala un po'. Sì, qui è quando si comincia a vedere qualcuno che non ti saluta, ti chiudono la porta, gli uomini sono mandati via, gli intellettuali. Trovo importante questa cosa, scusate questa piccola parentesi vocale, perché è la memoria di tutte le fughe, di tutti i grandi eccidi. Questo è quello degli armeni. Addio alla casa, alla terra. Nostalgia già. Qualcuno scappa. Thank you. catena dei deportati. L'alba è molto triste. E comincia la marcia. Rimani, mi piace molto. Comunque la poesia che lei ha scritto su questo pezzo, sua poesia, sue musiche, il suo tutto. Sì, questo è proprio un omaggio agli anelli di cui adesso ricorre il 101enario del genocidio. Questa poesia ha tre parole armene: i tachar, che sono le voci di pietra che disegnano l'Armenia, tipica dell'Armenia, l'Ararat, il grande monte che è il simbolo dell'Armenia, però ormai è turco, il lavash, che è il pane armeno. Ma le stelle non siete riusciti né a forare il cielo immenso d'Armenia. Grazie a voi, assassini, l'urlo dei Kachar traccia l'universo. L'Ararat, barriera di luce rubata, riflette i fiori di ogni corpo al profumo del lavash, e un giorno vi accenderà. Dedicata agli assassini, a tutti gli assassini dei genocidi. Ecco, allora da noi questa sera Federica porta questo libro di poesie. Vi volevo raccontare brevissimamente il nostro incontro, che è stato un incontro buffissimo, perché attraverso le nostre amiche, metto plurale, le nostre amiche Cristina e Emanuela Pierotti, mi avevano detto che c'era questa simpatica persona, molto interessante, che avremmo potuto scambiarci dei discorsi tra noi due, eccetera. Boh, lei mi telefona, ci diamo un appuntamento all'albergo Laurin, mangiamo insieme, buonasera, mangiamo insieme un boccone al Laurin, e poi io le dico, ma insomma dovrei andare, e lei dice, veramente anch'io, e dico, dove vai? E lei dice, in montagna, e io dico, anch'io, andavamo nello stesso posto, perché abbiamo la casa, io a Vigo di Fassa, lei a Pozza, a 3 chilometri di distanza, con tutta questa grande storia di incontrarci qui, quando veramente, e poi da allora devo dire che ci siamo incontrate sempre, perché loro sono su molto e noi anche, e ci incontriamo sempre più volte a fare le cose più disparate. Allora io ero stata, sono stata invitata anche da loro, insomma tutte queste, andrei a casa sua che abita vicino a Milano, abita vicino a Pavia, veramente un posto meraviglioso. Comunque voglio presentare, ho il piacere di presentare questo libro, La catena delle stelle. A me è un libro che ha impressionato molto, perché io amo la poesia, però non sono così, così facile a farmi entusiasmare dalle poesie, sono piuttosto attenta alla poesia. Ho alcuni amici grandi poeti e Perciò ti voglio dire, questo è un bellissimo libro di poesie, anche perché, tornando a quello che dicevo prima, è sul fatto della poesia, con la sua etimologia greca in definitiva, è questo senso proprio della creazione di atmosfere, di momenti, nel quale lei trasforma la sua professione, cioè la sua scienza, praticamente in un fatto artistico, in un fatto di vera arte. Cioè, di nuovo è nella linea, per questo l'avevo proposto alla biblioteca Claudio Augusta, perché è nella linea della Claudio Augusta di usare non soltanto di letteratura nel senso di novelle o piuttosto di racconti o piuttosto di storia, ma anche di cose che possono riguardare nella maniera più vasta anche le scienze e l'arte. Perciò mi sembrava veramente il caso di presentare questo libro. Ecco, dicevo, la poesia, lo sapete, prima della scrittura, cioè proprio questo distillato, questa essenza delle cose, e poi qui, nella maniera più importante, l'essenza di una professione che credo sia estremamente difficile, almeno io la ritengo tale, che la fai probabilmente no, ma non lo so. Comunque estremamente difficile, proprio perché è difficile trovare, e torniamo alla parola di prima, trovare un contatto, trovare la possibilità di uno scambio, di qualche cosa che passi da un'anima all'altra e che sia per tutti e due proficua. Ecco. Io so che ogni volta che faccio qualcosa imparo, non so se nella tua professione si impara qualcosa, non lo so, ma penso anche di sì. Ecco, comunque esce questo libro che adesso le chiederò, Federica struttura in due momenti, in due periodi, in due respiri. Uno è la scelta di sé e l'altro è proprio riferito al suo campo di azione. Non è ben detto, non, cioè fa male al cuore, ma è la follia. Ecco. Allora, che cos'è la follia sarebbe lungo da dire, in fondo che cos'è la normalità non lo so. Comunque, la presentazione di questo libro è già splendida, perché sono due frasi, una più bella dell'altra, che presentano il libro in quanto tale. Una è: alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, sua parte, ritengo che il linguaggio più appropriato per trattare delle realtà psichiche sia quello poetico, e infatti questo è. E poi ce n'è un'altra ancora, che è una frase che non la trovo più, dov'è? Quella di Lorca, cioè dove l'hai messa? Non la trovo più, non c'è più. Questa. Ecco, è questa, che dice: la poesia serve per nutrire quel granello di pazzia che tutti portiamo dentro e senza il quale è imprudente vivere. Questo è Garcia Lorca. Allora, dicevamo, Federica ha scelto di articolare questo suo libro in due percorsi, in due momenti. Uno è la scelta di sé e l'altro è la follia. Io adesso chiederei a Federica raccontarci un po' come sono nate, come mai è nata questa raccolta. Non è la prima di poesie, devo dire anche questo, cioè più di una volta tu hai scritto poesie, abbiamo detto, hai vinto anche dei premi, ma come è nato questo particolare libro e poi perché di questa divisione di parti? Domanda difficile. Beh, è nata come addio alla psichiatria, nel senso che secondo me la psichiatria non c'è, sì, un pochino c'è, ma abbastanza poco. E la poesia è abbastanza fuori dal mondo da poter interpretare abbastanza bene le realtà psichiche, non solo la pazzia, tutte quante. La divisione è in due, la scelta di sé è una minima parte forse, ma ci scegliamo. E io ipotizzo che la persona, che la scelta venga tra la capacità di scegliere, quindi tra il sì e il no, e la persona normale, cosiddetta, sceglie, e gli altri invece fanno molta fatica a scegliere. È come passare tra due piloni, come dice la tua prima poesia. Come, sì, la partenza è questa: il normale passa all'entrata della vita, tra i due saldi piloni, il sì, il no, altalenando appena. Insomma, lui passa. Il demente fugge, dall'un pilone all'altro corre finché respiro manchi, moto sconvolto perpetuo, paura a riso e pianto mescolata. E poi qui tratteggio alcuni tipi. Il genio. È in mezzo a questi che si lancia il genio, oltre gli istituiti sì e no, a pronunciare l'essere che vuole e il cambiamento, accettato il sé Dio, il sé nulla scontato. E poi c'è l'analista, che nel libro fa da ponte tra la prima parte e la seconda, che riguarda qualche folle e poi qualche emozione che tutti quanti abbiamo. L'analista. Avevo paura di scegliere altrove, delirare la vita del sole e dei venti e perdere il pane, prendere sassi per gemme e usare a coperta la polvere. Ho trovato la norma di me nella follia degli altri. Io ascolto chi delira la vita, la dubita, la rifiuta, lo traghetto alla fiorita riva senza l'oblio. Curo negli altri ciò che non oso, che il mio perdono sia l'addio di chi entra nell'oro della libertà. Ecco, trovo questa poesia molto forte e molto molto bella, e proprio questa dichiarazione di sé, che se naturalmente io conosco, penso di conoscere nessuno, conosce nessuno fino in fondo, ma qualche cosa ci siamo raccontate, e rispetta anche proprio le tue scelte, la tua scelta di vita, praticamente. La tua scelta di fare il medico, la tua scelta di fare questo tipo di medico, questo senz'altro, che è una scelta che parte da lontane tradizioni, da lontane cose, da lontani spunti, da lontane cose. Ecco. Poi naturalmente dicevamo, questo libro continua con la seconda parte, che, visto che leggi anche così bene, che ti prego di cominciare proprio perché questo percorso attraverso vari tipi. Tu hai detto prima una frase molto importante che vorrei tu spiegassi un po'. Hai detto la psichiatria non c'è più. E no, non c'è mai stata. Ecco, dimmi che cosa. Psichiatria è la cura, cioè dell'anima, insomma, detto la psichiatria vuole essere anche la spiegazione della malattia mentale, che comunque c'è. Quelli che non ne sanno niente, pensano che sia la società, che sia l'ingiustizia, che no, invece c'è, cioè i matti sono matti, ma non si chiamano più così, ma lo sono. Però non è mica vero che si sa perché. È vero che si possono guarire talora, è vero che in Italia dal 76 direi è praticamente proibito, non dico guarire, ma anche solo curarli e anche proteggere noi oltre che loro, per delle scelte che sono state politiche spacciate per sanitarie. Adesso ha perso il filo. Comunque no, la psichiatria non c'è, perché al di là di alcune medicine che sicuramente esistono e coincidono con delle ricerche, anche un po' servono, dalle dolci benzodiazepine ai più pesanti neurolettici, agli antidepressivi. È comunque un inganno pensare che risolvano la vita. Possono dare qualche piccola spinta, ma insomma, al di là di questo, secondo me non se ne sa proprio niente. E ho visto tanti psichiatri bravi, ma ho visto anche una folla di psichiatri che non capisce assolutamente niente. Cioè, nonostante cura lo stesso. Come in ogni professione, questo credo che sia un po' dappertutto. Ecco, vuoi leggerci la prima delle tue storie? Questa, folle? Folle, sì. Che è poi praticamente la catena delle stelle, sì, del quale è il sito. Nessuna di queste poesie corrisponde a una persona vera, sono una sintesi. Tagliava le catene delle stelle perché volassero libere dal cielo. Per questo girava col lungo coltello la notte, vestito di paura dalla gente, era più forte di Dio. Il vicino di casa? Sì. Il vicino di casa dopo molto tempo. Io non lo so se è morto o vivo. Credo però sia vivo. Luccica ancora la pietra che mi diede, illumina le notti senza luna di una vecchia cascina della Bassa. Questo è anche, mi sembra una cosa, a me è piaciuta molto, anche perché ti dà proprio l'impressione di queste case grandi ormai senza vicini. Invece queste sì, sono case con vicini, case con qualcuno col quale puoi parlare, confidarti e sentire la sua voce. Ecco. Invece oggigiorno i vicini non ci sono. Sono la tua bugia, leggiamo o no? Vedi, vai. Ecco. Li sentiamo tutte, tanto no, siamo tutte, qui. Tutte no, sennò ma poi nessuno lo piglia il libro. Ecco, dai. Ma penso, non se ne ricordano mica tu quelli che ti hanno la memoria così. Una folle. Mamma, sono la tua bugia, come il lago è la bugia del cielo. Mi hai chiamato cattiva per salvarti dalla perfidia tua che non sopporti. Ed io sono cattiva. Disegno su tutti il tuo volto e eseguo il mio pezzo. Urlo, picchio e impongo quello che tu non osi. Chiama amici a compiangerti, a legarmi infermieri. Svanirei se cambiasse il copione, io che non sono mai stata. Allora vai sulla salvatrice forse. Vado sulla salvatrice. Io volevo leggere quello leggi del papà. Leggi quello che vuoi tu, leggi quello del papà. Una mamma o del papà? Lui mi teneva in braccio, io gli volevo bene. Sei bello papà, mi sentivo volare. Era bello papà e l'amavo con tutto, per tutto, di tutto il mondo. Preferiva la mamma, è così che l'ho ucciso. Avevo 5 anni e non gliel'ho mai detto. Lui mi viene a trovare, mi ha fatto legare stamattina. Questo mi fa paura, ma non tanto. E poi sono contenta. Lui non sa che lo salvo, ogni giorno lo salvo, dal terrore che avrebbe se sapesse che è morto tanto tempo prima di stamattina. Tu vuoi la salvatrice? Io voglio la salvatrice, io sono positiva nella vita. Insomma, qua di positivo, ma... La campana scuote in piazza le ore frantumandole, le coriando laggiù a divenire colore di terra. Le colgo al volo e le nascondo in tasca. Mi dicono strana, non vedono loro che salvo le ore dall'eternità. Ecco, trovo questa, io trovo bellissima, sono tutte molto belle, ma anche questa poesia la trovo estremamente profonda, perché è l'immagine di molte persone che così nella mia vita, soprattutto così nella mia vita di ragazza, quando andavo da mia nonna nei paesi, c'erano appunto queste persone e che avevano, strano a dirsi, persone considerate strane, considerate diverse naturalmente, però che avevano questo tipo di linguaggio, e mi hai fatto ricordare questo coriandolando, cioè facendone coriandoli delle cose. Ecco, e mi ha colpito veramente anche l'uso della lingua, l'uso, come dicevi, l'uso che è veramente estremamente poetico e che è al di là di ogni capacità di mediare, se non attraverso queste forme assolute e particolari, di mediare le realtà. Ecco, se vuoi leggere questo sull'autismo, mi piace. L'autismo? Autismo. Si staccano dall'essere emozioni, volano come lenzuola dal filo teso, seccate al sole. Naviganti che la strega incantò, bianca e senza anima. E poi forse paura. Paura, sì, poi ci sono delle emozioni di tutti. Beh, ma anche le emozioni dei folli le abbiamo tutti, solo che noi abbiamo delle misure, no? Paura è il mondo che scivola via. Rotolano le strade, le onde succhiano sotto i piedi, la sabbia un po' azzurra e sei un bambino. Stringe alle spalle l'asciugamano, umido di sera. È proprio da pensarci un attimo e pensare a se stessi e a tutto quanto. Adesso noi avevamo fatto due tipi di discorsi. Non so, e questo lo chiedo a voi, perché naturalmente misuriamo e anche quello che si dice, quello che facciamo anche al pubblico che abbiamo. Non so se vi interessa sentire un'altra sua composizione, cioè la sua voce non poetica, ma la sua voce tradotta in suono, e poi leggere questo "e poi", che è un finale delle cose, o se invece volete che continuiamo con la poesia. Volete sentire questa musica? Sì. Ancora? Ecco, tu sei capace di metterla? Certo, soprattutto perché lui ha messo. Non so se fa la pittrice, un giorno glielo chiederò, quello non glielo ho mai chiesto. Cosa? È la pittrice? Sei la pittrice? Oh, non lo so. Per ora no, si sa mai. Arrivo, che le devo ritrovare. Eccola. Queste sono state, naturalmente sono musiche sue, eseguite da una pianista. Sì, Anna Martirosyan, la pianista armena, bravissima. E il titolo della poesia è... Tornerò. La minaccia. Lo volevo dire io, mi hai rubato la parola. È una minaccia, sì. Naturalmente nel video si ha anche la possibilità di vedere queste mani estremamente interessanti, perché c'è soltanto la tastiera e le mani e questo suono. Quanto così ti come nasce la tua musica? Non lo so. Sono i battimani poi della coda. Sì, questa. Ma io trovo anche questa seconda voce così profondamente partecipe, ecco, questa voce, questo suono così partecipe di quello che è la tua presenza e la tua posizione verso l'altro, io lo trovo estremamente importante, perché è proprio come uno... Io l'ho vista, ho visto una volta sola, ma comunque quando sono venuta, perché andavamo poi a Lugano insieme, e l'ho aspettata nel suo studio, e l'ho vista proprio come si mette, mi sembrava di vedere qualcuno che si mette a tutta apertura per accogliere, per cercare di vivere e di fagocitare buttando fuori in maniera positiva quello che le viene dato, ecco. E poi c'è questa, e poi questa poesia che adesso vi leggerà lei, e poi ne leggo una io. Ah, oh, bene. Leggi. Sì, perché io lo so che non le posso credere, ma leggo male. Non è vero, leggi benissimo. Ma magari con l'allenamento. E poi saremo oltre il confine, dove la luce crea limpidissimi spazi e eterno moto d'astri. Leveremo il viso là dove nasce il vento, ad ascoltare il nome di ciò che abbiamo amato. Molto molto bella. E adesso, come dico, un'altra domanda, se tu permetti, è una domanda un po', non so, è una domanda un pochettino violenta. Tu hai dedicato questo libro, ho visto, ad una persona che ha il tuo cognome. Sì. Dimmi chi è, tuo padre? Sì, Giuseppe Mormando era mio papà, che dirigeva una scuola meravigliosa, veramente meravigliosa, dove io non potevo andare. Perché? Perché la mamma cattiva me l'ha proibito. Però no, era peggio, in realtà era peggio, perché ci andavo quando c'era il saggio del teatro. Tra le cose bellissime che facevano il teatro, per dire, c'era Nichetti tra i giovani allievi, cioè, no? E io andavo a questi saggi meravigliosi, io avrei pagato la vita per poter essere anch'io lì, e invece no. E credo che questo sia rimasto nel sogno. Non ero invidiosa dei ragazzini, ero così, ero in un mondo che volevo fosse mio per più di un giorno. Bellissima cosa. Ecco, e adesso vi leggerei quest'ultima, la poesia che chiude in vetta questo bel libro di poesie, questo profondissimo libro di poesie, ed è a chi legge, cioè a noi. Quando avrai notti di uomini e nitidi come rami al cielo azzurro d'inverno, ti auguro il volo d'un uccello, la corsa di un bambino, perché il cuore non scordi di pulsare ancora. Grazie Federica Mormando. Comunque le tue musiche sono molto belle, devo dire, musica e poesia, ma anche le musiche sono molto belle. Signori, avete qualcuno, signori e signore, qualcosa da chiedere? Come si fa a fare domande? Ah, non lo so, è difficile, sei tu? Ah, far domande è molto difficile, sì. No, ma poi questo vorrebbe essere fuori dalla ragione, le domande vengono dalla ragione, restiamo fuori. Allora ti facciamo domande. Giusto. Allora ti diamo la nostra partecipazione affettuosa, la nostra simpatia, e veramente questo momento che abbiamo goduto, io almeno l'ho goduto, spero anche voi, che abbiamo goduto profondamente. E grazie a te che hai fatto un altro libro. Adesso spero che mi diano la registrazione, così poi... Un altro libro, in che senso? E parlando hai fatto... Oh mio Dio! Lei non mi prende in giro, dottore? No, la prendo in giro. La copio. La copierò. Ecco, questo è quanto. Grazie allora. Facciamo così.